Il diluvio. La parola diluvio fa parte del nostro linguaggio. Piove a diluvio, oppure può venire il diluvio. Ma lui non si muoverà. In senso figurato, diciamo, ha versato un diluvio di lacrime, oppure ne ha detto un diluvio di parole. La parola diluvio è diventata di uso talmente comune che ormai non facciamo più caso al suo reale significato. Questo termine deriva dal latino diluvium, il cui significato è lavare, bagnare. Il suo significato etimologico è pioggia dirotta di una violenza unica e che sembra non debba aver fine. La domanda che ci si pone è: da dove arriva questa definizione? Tale espressione ha avuto un riscontro nella realtà? Sì, la Bibbia ci narra non solo di un diluvio, ma di un diluvio universale. Ma è realmente avvenuto un diluvio universale? Non è forse una favola? Quale cristiano, sono propenso a risponderti per fede, che il diluvio è veramente avvenuto? Voglio però darti l'occasione di credere al diluvio universale anche in base agli elementi razionali che ho acquisito. Prima di tutto, non sottovalutare che il diluvio fu un fenomeno universale tale da impressionare gli esseri umani al punto da ricavarne leggende e miti che ancora oggi si tramandano. In effetti, nessuna leggenda può reggersi in piedi se non rifacendosi a qualche evento reale. Il fatto che, riguardo al diluvio, siano sorte delle leggende non deve essere una ragione per rimanere incredulo. Anzi, esse devono indirizzarci nella direzione della verità. Una ricerca di Philip Freund, Myths of Creation, calcola che esistano almeno 500 leggende del diluvio narrate da più di 300 tribù o popoli. Molte di queste leggende hanno dei tratti in comune con la narrazione biblica. Gente violenta viveva sulla terra prima del diluvio. Un uomo fu avvertito dell'imminente castigo divino. La distruzione fu totale e riguardò l'intero mondo. Un uomo sopravvisse con una o più persone. Molte leggende menzionano un'imbarcazione costruita da lui stesso e che posò alla fine su di un'alta montagna. I sopravvissuti ripopolarono la terra. Trattino. Ecco alcune di queste leggende provenienti da ogni continente. Leggenda sumerica. Il racconto sumerico è conosciuto come l'epopea di Atracasis. Di questo sono state trovate copie, risalenti al 1600 AC, nelle rovine di Ugarit. Nel racconto leggiamo che gli dei del cielo, infastiditi dal fracasso che gli uomini provocarono sulla terra, decisero di distruggere completamente l'umanità con un gran diluvio. Ma Enki, il dio creatore, avverte il suo favorito, Atracasis, che riesce a salvarsi con la sua famiglia e i suoi animali su di una grande imbarcazione. Finito il diluvio, Atracasis offre un nuovo sacrificio agli dei del cielo. La leggenda babilonese. Questa storia è conosciuta come l'epopea di Gilgamesh. Gilgamesh incontra Utnapishtim, l'immortale, che gli racconta la storia del diluvio. Gli dei decidono di distruggere l'umanità con un diluvio, perché irritati ed offesi dal comportamento degli uomini. Il dio buono, Ea, avverte il suo favorito Utnapishtim, dandogli indicazioni per costruire una nave a forma di cubo avente un lato di 60 metri. Inizia il diluvio, che dura 7 giorni. Poi esso cessa e la nave si incaglia sul monte Nisir. Utnapishtim apre una finestra ed invia una tortora che ritorna indietro, in seguito un corvo, che non ritorna. Infine egli, uscito dalla nave, offre sacrifici agli dei. La leggenda greca ha come protagonisti due sole persone. Deucalione e la moglie Pirra sopravvivono ad un grande diluvio rifugiandosi in una grande cassa che si posa, alla fine del diluvio, sul monte Parnaso. Leggende orientali. A. In una leggenda indiana, i protagonisti sono Manu e Ida. Un pesce avverte Manu di un terribile diluvio. Manu costruisce una nave che il pesce, diventato enorme, trascina fino a farla posare sull'Himalaya. B. In un'altra storia cinese, sono due bambini, Nuva e Fuxi, a ricevere, dal dio del tuono, un dente che, piantato, produce una grande zucca. Quando si scatena la pioggia torrenziale, I bambini entrano nella zucca e si salvano, ripopolando poi la terra. Leggende americane A. Gli indiani Arikara dell'America settentrionale dicono che, un tempo, la terra era popolata da giganti potenti che schernivano gli dèi. Il dio Nesaru li distrusse con un diluvio, preservando però alcuni uomini, degli animali ed il mais in una grotta. B. Anche per gli Havasupati dell'America centrale, il dio Okomata distrusse la terra con un diluvio. Ma un uomo, Tociopa e sua figlia, si salvarono rifugiandosi in tronchi cavi. C. In Messico, i Chimalpochi narrano che il dio Tezcalipoca avvertì un suo amico, Nata, di un imminente diluvio. Nata e sua moglie, Nema, trovarono rifugio in un tronco scavato. D. In Perù, i Quincha hanno una leggenda riguardante un diluvio, durato 5 giorni, che distrusse tutti gli uomini, tranne uno che fu portato da un lama su un alto monte. E, in Bolivia, gli Aymara dicono che il dio Viracocha uscì dal lago Titicaca e che creò degli uomini di grandezza e forza normali. Ma questi uomini lo fecero arrabbiare. Viracocha mandò allora un diluvio che li distrusse tutti, tranne 2 uomini di proporzioni normali. Leggende del Pacifico. A Samoa si racconta la storia di Piri e sua moglie, i quali, mettendosi in salvo su di un'alta montagna, sfuggirono ad un diluvio che distrusse tutti. La tradizione nelle Hawaii riporta che il dio Kaneke si adirò con gli uomini e mandò un diluvio a distruggerli. Solo Nuu si salvò su una grande barca che si posò su un'alta montagna. B. Nelle Filippine si ricorda che, un tempo, l'acqua coprì tutta la terra. Tutti perirono, tranne 2 uomini ed una donna. Leggende siberiane. A. I Soyo, della Siberia orientale, si ricordano di un mondo inondato. Solo un vecchio e la sua famiglia sopravvissero su di una zattera, costruita da loro stessi, che si posò, dopo il diluvio, su un alto monte. B. Gli Ugri della Siberia occidentale parlano anch'essi di sopravvissuti ad un diluvio che, su delle zattere, si dispersero sulla terra. Queste sono alcune delle leggende tramandateci. Cosa dice invece, in merito al diluvio, la parola di Dio? Molto. Essa fornisce particolari, talmente disarmanti, da lasciare senza fiato. Vogliamo considerarli partendo dall'inizio? Nel momento in cui l'Eterno Dio restaurò la terra. Leggiamo in Genesi capitolo 1 i primi 20 versetti. 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. 2. La terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. 3. Poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. 4. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. 5. E Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte. Così fu sera. Poi fu mattina, il primo giorno. 6. Poi Dio disse, vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque. 7. Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento. E così fu. 8. E Dio chiamò il firmamento cielo. Così fu sera, poi fu mattina, il secondo giorno. 9. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e appaia l'asciutto. E così fu. 10. E Dio chiamò l'asciutto terra, e chiamò la raccolta delle acque mari. E Dio vide che 11. Poi Dio disse, faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme e gli alberi da frutto, che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu. 12. E la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie e alberi, che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che 13, così fu sera, poi fu mattina, il terzo giorno. 14. Poi Dio disse, vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte. e siano per segni, e per stagioni, e per giorni, e per anni. 15. E servano da luminari nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra. E così fu. 16. Dio fece quindi i due grandi luminari, il luminare maggiore per il governo del giorno, e il luminare minore per il governo della notte, e fece pure le stelle. 17. Dio li mise nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra. 18. Per governare il giorno e la notte, e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono. 19. Così fu sera, e fu mattina, il quarto giorno. Il primo libro della Bibbia inizia con un incredibile racconto. Da molti studiosi, questo capitolo è ritenuto una descrizione figurata o poetica di come Dio ha creato ogni cosa. Senza perderci in tante discussioni, nel Nuovo Testamento notiamo che Gesù e gli Apostoli hanno interpretato i primi capitoli della Bibbia in senso letterale. Essi hanno ritenuto ciò che è scritto tale e quale alla descrizione fatta. Leggendo lo stesso testo dopo 2000 anni, non ci resta che adottare lo stesso criterio. Il primo versetto della Bibbia stabilisce un principio. Nel principio, Dio creò i cieli e la terra. L'autore vuole far sapere che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Ebrei 11, 3. Esse furono create dal nulla. Nel secondo versetto troviamo che il globo terrestre era un ammasso informe di acqua e terra. È chiaro che questo stato di cose sia completamente diverso da quello descritto al versetto 1. Bisogna notare che ciò non è detto dei cieli, ma solo della terra. Non vi sono limiti indicati allo spazio di tempo che intercorre tra la creazione dei cieli e la terra, e lo stato di rovina descritto al versetto 2. Da questo momento l'Eterno Dio inizia la restaurazione creazione, idonea a far sì che il globo terrestre fosse abitabile per gli esseri umani. Il primo giorno Dio ordinò alla luce di risplendere, sia la luce! E la luce fu. Con tale espressione, la scrittura non vuole significare che Dio illuminò ciò che giaceva nel buio, anche se ciò accadde di conseguenza, ma che egli mise in evidenza la luce come entità fisica. In effetti, la luna e il sole, dal quale siamo illuminati, furono posti nel cielo e non creati solo il quarto giorno. Il secondo giorno Dio disse, vi sia un firmamento tra le acque, che separi le acque dalle acque. Tale espressione indica che Dio separò quell'ammasso disordinato di materia e acqua, formando un ampio spazio, cioè il firmamento. Questo spazio era circondato dalle acque, acque che erano sotto il firmamento e acque che erano sopra il firmamento. Questo spazio Dio lo chiamò cielo. Esso corrisponde a ciò che noi chiamiamo atmosfera. Così il globo terrestre, ancora informe e vuoto, era tutto ricoperto dall'acqua. La terra fu tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua a 2 Pietro 3, 5. E circondato, sopra il firmamento, da altra acqua. Il terzo giorno, l'Eterno Dio raccolse le acque, che coprivano completamente il globo terrestre, in un solo luogo, dando alla crosta terrestre la possibilità di affiorare. Così il globo terrestre ebbe l'asciutto, chiamato terra, e le acque, chiamate mare. Questo concorda con i dati degli studiosi, i quali affermano che il globo terrestre, migliaia d'anni fa, non aveva né isole né continenti, ma un solo luogo, dove appariva l'asciutto. Non a caso, la scrittura ha specificato questi particolari. Essi saranno utili per comprendere come avvenne il diluvio. Dalla parola di Dio sappiamo che l'Eterno formò gli animali e Adamo ed Eva nel quinto e sesto giorno. Il settimo giorno si riposò. In Esodo 20 e 11 leggiamo, nei 10 comandamenti, l'ordine di riposarsi un giorno su 7. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra e il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Molte persone hanno ravvisato in queste parole la conferma della nozione popolare che la terra e tutto ciò che in essa fu creata in sei giorni, confondendole con Genesi 1:1. Se la scrittura avesse detto che l'Eterno ha creato i cieli e la terra in sei giorni, la loro opinione sarebbe fondata. La parola di Dio però non dice questo. Da nessuna parte. È scritto infatti che la terra, al momento della restaurazione, esisteva da millenni di anni. Noi leggiamo in Genesi 1:1 che nel principio Dio creò i cieli e la terra, ma in rapporto all'opera dei sei giorni è detto che l'Eterno fece i cieli e la terra. Il verbo fare in ebraico non significa trarre una cosa dal nulla, ma riordinare, sistemare. E questo appunto è il verbo usato in relazione al sole, alla luna e le stelle. In pratica, Dio mise in ordine il nostro sistema solare. Al capitolo 2 della Genesi leggiamo qualcosa di molto importante per il nostro studio. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Genesi 2:5-6. Da questa descrizione possiamo comprendere che la pioggia, come evento atmosferico quale oggi noi conosciamo, non si verificava subito dopo la creazione e restaurazione. La terra veniva annaffiata da un vapore, proveniente dal contatto fra il magma terrestre incandescente e le acque sotterranee. Prova ne è l'arcobaleno che, quale fenomeno atmosferico, si verificò per la prima volta dopo il diluvio. Anche il giardino dell'Eden, dove erano stati posti Adamo ed Eva, era adacquato da un fiume, che si divideva in quattro corsi d'acqua. Fino a pochi anni fa, di questi quattro fiumi, erano conosciuti solo il Tigri, o Kiddeshel, e l'Eufrate. Grazie ai satelliti LANSAD, che trasmettono immagini della superficie terrestre in strisce di 185 km, sono stati scoperti anche gli altri due, che oggi si trovano allo stato fossile. Ciò smentisce le affermazioni di molti critici della Bibbia, miranti a far credere che le suddette descrizioni siano solo simboliche. Passano migliaia d'anni e l'uomo si moltiplica sulla faccia della terra. Leggiamo in Genesi, al capitolo 6, i primi tre versetti. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per loro mogli tutte quelle che essi scelsero. E l'Eterno disse, «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni». Così l'Eterno disse, «Lo sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti». Quasi in tutte le leggende si riporta che gli dèi, irritati ed offesi, decidono di distruggere l'umanità con un diluvio. In effetti, per le stesse ragioni, l'Eterno, il Dio di Israele, fissa un termine per l'umanità. 120 anni. Trascorso il suddetto, egli avrebbe mandato il diluvio. Ma, leggiamo nella scrittura, Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Come raccontano più o meno le leggende, un uomo viene scelto, assieme alla sua famiglia, affinché non perisca nel diluvio. Fin qui. Il racconto del diluvio, come lo descrive la Bibbia, può essere equiparato ai tanti miti e leggende. Ma vi è un particolare che distingue il racconto del diluvio biblico dagli altri. Nell'anno 600 della vita di Noè, nel secondo mese, nel 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cateratte del cielo si aprirono. E piovve sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Genesi 7:11-12. Fedele alla sua essenza, la parola di Dio è soprattutto storica. Nella Bibbia, l'episodio del diluvio non è un evento vago e imprecisato. Esso infatti viene descritto con estrema precisione, tanto da citarne l'anno, il mese e addirittura anche il giorno preciso in cui esso ebbe inizio. Nessuna letteratura fa questo, non solo. La parola di Dio definisce il periodo del diluvio, 40 giorni, e la durata in cui le acque ricopersero la terra, 150 giorni, Genesi 7:24, oltre al termine del diluvio. Nell'anno 601 di Noè, nel primo mese, nel primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra, e Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Così nel secondo mese, nel 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Genesi 8, 13-14. Di fronte a questi dati, una persona raziocinante non può pensare al diluvio come ad un mito. Ogni favola o parabola inizia con «c'era un volta» o «vi fu un tempo». Un racconto, che inizi citando con precisione giorno, mese ed anno, indica una precisa volontà dello scrittore nell'esporre dei fatti che egli ritenga veramente avvenuti. O chi scrive vuole fornire prove di ciò che sta dicendo, o è un gran burlone che vuole raccontare la più grande bufala. Ma di bufala non si tratta, visto che in tutte le culture si tramanda il racconto del diluvio. Ora, si può tramandare un evento storico in modo inesatto, ma non inventarlo di sana pianta. È vero che la favola nasce dall'immaginazione dell'uomo e non ha nessun riscontro storico, ma si capisce subito che è una favola. Al contrario, non è possibile ritenere che il diluvio, così come è descritto nella parola di Dio, con date precise e particolari umani, sia tale. La sola ragione per cui il diluvio possa ritenersi un mito è non credere che la Bibbia riporti elementi storici. Però anche questo atteggiamento è opinabile, perché gli studi e le scoperte degli studiosi seri non hanno mai contraddetto ciò che è scritto nella Bibbia. Chi lo ha fatto in seguito si è dovuto ricredere. Chi sposa teorie sbagliate, prima o poi rimane vedovo. Ma veniamo al diluvio. Come è avvenuto? La terra è stata veramente sommersa del tutto? Il diluvio ha ricoperto anche le montagne alte 9.000 metri? Da dove è scaturita tanta acqua? Rileggiamo attentamente in Genesi, capitolo 7. Nell'anno 600° della vita di Noè, nel secondo mese, nel 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cateratte del cielo si aprirono. E piovve sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Genesi 7, 11-12. Secondo la scrittura, la terra fu sommersa, il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. 2 Pietro 3, 6, perché irruppero in superficie delle acque da sotto le terra e altre caddero dal cielo. Una simile descrizione ci porta a basarci sugli eventi atmosferici che oggi noi sperimentiamo. Le cose però non andarono così. Abbiamo considerato che l'Eterno Dio il secondo giorno divise le acque che ricoprivano la terra dal firmamento. In questo modo si formarono due ammassi di acque, le acque che erano sotto il firmamento e quelle che erano sopra il firmamento. Noi pensiamo che le acque sotto il firmamento siano i mari, mentre quelle sopra il firmamento siano le nuvole. La scrittura ci dice invece che sopra il firmamento, cioè il cielo, si era formata una calotta di acqua. Così, mentre da sotto la terra uscivano fiumi di acqua, dal cielo precipitò l'acqua che formava tale calotta. In questo modo, aprendosi le cateratte del cielo per 40 giorni, la terra fu sommersa. Infatti leggiamo, le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque, e le acque ingrossarono con grande forza sopra la terra, e tutte le alte montagne che erano sotto tutto il cielo furono coperte. Le acque si alzarono 15 cubiti al di sopra di esse, e le montagne furono coperte. Genesi 7, 18-20. Possibile che le acque salissero fino a 9.000 metri per ricoprire le montagne attuali? Noi ragioniamo rifacendoci ai dati odierni. Ma le montagne al tempo di Noè non erano così alte. Ecco la testimonianza che troviamo nel Salmo 104. Egli ha fondato la terra sulle sue basi. Essa non sarà mai smossa in eterno. Tu l'avevi coperta dell'abisso come di una veste, le acque si erano fermate sui monti. Al tuo rimprovero esse fuggirono, alla voce del tuo tuono si allontanarono in fretta. I monti sorsero e le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi fissato per loro. È impossibile per noi comprendere il cataclisma che subì il globo terrestre con il diluvio. Non è difficile però comprendere che la crosta terrestre abbia subito un'immane pressione. La Terra, che al centro ha una temperatura elevatissima, a contatto con l'acqua, ha creato una pressione tale da sollevare la crosta terrestre e formare le montagne che oggi noi conosciamo. Per questo leggiamo che i monti sorsero e le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi fissato per loro. La faccia della Terra anteriore al diluvio non era certamente quella che conosciamo oggi. Del resto, non credo che occorra molta fede per credere che le montagne furono sommerse dalle acque. Ancora oggi possiamo trovare delle conchiglie in alta montagna. Noi vediamo e sappiamo le cose, ma continuiamo ugualmente a pensare che il racconto del diluvio sia un mito. Che cosa ci è di tanto incredibile alla luce di quanto abbiamo esposto? E gli animali? Un'ultima domanda che si impone è: ma come fece l'arca a contenere tutti gli animali, compresi i dinosauri? Perché questi, oggi, non esistono? Ecco la risposta a queste domande. Un noto tassonomista, un esperto nella classificazione degli animali, stima che vi siano, oggi, più di 1 milione di specie d'animali. Analizzando i suoi dati, scopriamo che un gran numero d'animali poté sopravvivere al diluvio, perché quelli acquatici non morirono. In effetti morirono solo gli animali che vivevano sulla terra. Genesi 7:22. Rimanevano, così, solo 17.500 specie di animali che dovevano essere salvate. Dato che occorrono un maschio e una femmina, Noè accolse nell'arca 35.000 animali. Considerando le dimensioni dell'arca e degli animali, c'era spazio per tutti. Infatti, la maggior parte degli animali è più piccola di una pecora. 35.000 pecore si possono mettere in 146 vagoni merci. Considerando che l'arca era lunga 132 metri, larga 22 e alta 13, essa aveva la capacità di 522 vagoni merci, tre volte lo spazio occupato di 35.000 pecore. Sulla base di questi dati, gli animali potevano stare benissimo su un solo piano. Quando Dio fa le cose, le fa sempre in abbondanza. E i dinosauri? Non è detto che Noè abbia caricato dinosauri adulti, era più saggio salvare dei dinosauri piccoli, dal momento che gli animali dovevano anche essere nutriti. Come mai sono estinti? La risposta ci viene dalle prime riflessioni che abbiamo fatto. La Terra era avvolta da una calotta d'acqua, la quale filtrava i raggi ultravioletti, attenuandoli. Ne sappiamo qualcosa dal buco dell'ozono, per cui il clima era caldo e mite. Vi era una quantità eccezionale di vapore acqueo nell'atmosfera, grande abbondanza di anidride carbonica. Questo clima da serra favoriva la crescita delle piante. Dopo il diluvio, il clima della Terra cambiò radicalmente. L'età media degli esseri umani diminuì notevolmente. I dinosauri, non essendosi adattati al nuovo habitat, si estinsero. Nulla di strano, si sono estinte anche tante altre specie d'animali. Solo che il diluvio ne ha estinte un numero esiguo, mentre l'uomo, con il suo progresso, ne ha estinte centinaia e ne estinguerà molte altre, come è scritto. Insieme alle bestie dei campi e agli uccelli del cielo, anche i pesci del mare saranno eliminati. Osea 4:3. Il diluvio, che lo si voglia o no, è stato un evento catastrofico. Ma l'uomo, con il suo modo di agire, che Dio definisce peccato, produrrà una catastrofe ancora più grande. Un terzo delle piante, degli animali e degli uomini saranno annientati. Che il diluvio possa essere un monito per tutti, per ricordarci che ciò che sta scritto nella parola di Dio si avvererà. Gesù disse: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Matteo 12:35. Novembre 20.002. Ellero,